esplosiva. Tieni, fuma questa che io sto ancora qua con gli zombie in comitiva. L'ansia collettiva non si ferma la locomotiva. Disperati, diffidati, che vivono e non cercano i significati. Imputati, implicati, con tutti i sentimenti amplificati. Perché non possono scegliere se avere la merda oppure qualcosa di meglio, visto che la notte li seguono con le sirene a gruppi di quattro come le iene. Perché è questo quello che gli conviene. Sottovoce con il cell, senza batteria, cuffia a palla e faccio latte a latte a mia, mia. Verità a tempo fra musica pentotal, con lo stipendio nel cielo fan. Mystic One, One, One. Gem, Gem, Gemello. Ok, ok. Tu dimmi a cosa cazzo credi. Non la calcoli se c'è la somma della merda che col tempo ricevi. Miss you baby, hai ancora sogni per cui batterti. Invece gli occhi sul display, cervello in buffering. Rivendico il diritto di odiare, di odiarmi e di odiarti. Perché l'amore brucia e si spegne senza riguardi. Tipo Mega Armageddon nel pezzo e speri che sia vero. Poi scende il buio come se qualcuno avesse spento il cielo. Lo senti da ogni frase, la nostra razza è figlia di uno stupro. Quindi ti scongiuro non chiamarmi frate. Puoi parlare al muro, dargli capocciate, non cambia, nella mia testa sono io quello che comanda. Gruppi di ascolto tipo Mandria, di fronte a un plasma, con la TV che plasma. A me mi sale l'ansia, tu non chiedermi dov'è che si va ancora. Per me si va nella città dolente, Roma. Segui le stelle, raggiungimi più in alto. Poi, punta di piedi, lasciati cadere indietro a volo d'angelo. Apri le porte della notte, scendi nel tuo hangar. Torni vestita col cappello tipo Casablanca. Io faccio slalom, faccio canestro nella bocca con un nacho. Tra le macchine ti lancio un bacio. Metti la testa nella sabbia per la shame. Mi teleporto dove voglio come Twisted Fate. Siamo istigati da una frase, da una fase lunare. Oltrepasso questa merda in mezzo ai raggi laser. Laser, e quanta gente che ti parla vanvera. Ti esplodi in faccia la tua bubblegum.